si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Da poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, voglio dire, è qualcosa di immenso. Caccia al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.32 di questo sabato 18 ottobre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. (33) 180 94 94 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per una mail. E oggi parleremo di KiteGen, Kite Wind Generator. In sostanza si tratta di usare degli aquiloni ad un'altezza considerevole per immagazzinare il flusso del vento troposferico come energia. E noi al telefono abbiamo Massimo Ippolito, uno dei tre fondatori di questa società che è KiteGen. Buongiorno Massimo. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Massimo, hai 100 parole per spiegare KiteGen, facciamo finta che io abbia 10 anni, come me lo spiegheresti? Lo spiegherei in questo modo: il KiteGen è composto da un'invenzione e da una scoperta, anzi direi una serie di scoperte. La serie di scoperte sono situazione energetica globale che sta andando in crisi, si sta trascinando l'economia, ma questa scoperta l'abbiamo fatta 10 anni fa quando abbiamo iniziato a pensare di trovare un'altra fonte di energia. L'altra scoperta è che tutti i giacimenti del mondo, dal carbone al petrolio, sono abbastanza alla fine e che rimane un unico grande giacimento, che è il vento troposferico. E quindi fondamentalmente questo sistema consta nel fatto di poter sfruttare questo vento troposferico nel miglior modo possibile. Possiamo riassumere così. Abbiamo pensato, ma com'è possibile tirare giù questa energia? Con questo commitment abbiamo iniziato a pensare quali potevano essere i metodi. E qui viene l'invenzione. L'invenzione, probabilmente ce ne potranno essere altre, anzi io ci spero, ma sembra che noi abbiamo messo le mani sull'idea più efficace, più economica, più promettente e realizzabile nel più breve tempo possibile. E ovviamente tutto questo andremo ad esplorarlo all'interno della trasmissione e ora vi lascio con un pezzo musicale che questa settimana è degli Hype, un gruppo parigino che compone musica indie rock, ovviamente Creative Commons. Siete sempre all'ascolto di Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fucico. Quelli che vi state ascoltando sono gli Hype. In particolar modo questa canzone si chiama Home. E quest'oggi stiamo parlando di Kitegen, un sistema per sfruttare il vento troposferico tramite degli aquiloni, ovviamente per ricavare dell'energia. E al telefono abbiamo Massimo Ippolito, uno dei fondatori di Kitegen. Ribuongiorno Massimo. Buongiorno. Prima domanda, cosa differenzia Kitegen dagli altri sistemi? Cioè in particolar modo, perché Kitegen è un sistema tra virgolette performante? Allora, come dicevo, abbiamo pensato come andare a sfruttare il vento di alta quota, perché quando diciamo troposferico, vento troposferico vuol dire fino a 10.000 metri, e ci siamo resi conto che è impossibile costruire delle strutture rigide in grado di raggiungere tali quote che resistano alla forza del vento. Allora abbiamo trasformato un po' quello che è il concetto delle torri eoliche, che fanno, lasciatemi dire, un braccio di ferro con le forze della natura, in un tiro alla fune. Un tiro alla fune dove l'elemento strutturale diventa una semplice fune. Oggi la scienza dei materiali ci ha dato dei materiali incredibili come queste fibre ad alto modulo, che sono almeno 15 volte più resistenti dell'acciaio a parità di peso. Quindi fammi capire, in aria c'è un aquilone fatto in maniera particolare, questo aquilone viene tenuto a terra tramite dei sistemi e poi l'energia come si ricava? Allora, in aria c'è quello che chiamiamo un profilo alare, una vela controllata, ormai il controllo automatico del volo è una tecnologia acquisita, questa vela vola nel vento, si aggancia al vento e trascina queste funi che a terra trovano degli argani intelligenti, degli argani in grado sia di pilotare l'aquilone sia di produrre energia. In pratica lo srotolamento della fune fa ruotare gli alternatori che producono energia, ma gli alternatori sono a terra. Senti, nel fuori onda parlavamo del fatto che è scorretto dire che l'energia viene trasferita attraverso la fune. In realtà attraverso la fune che cosa viene trasferito? Viene trasferita della forza meccanica. La forza, chi ha fatto fisica sa che forza moltiplicato per la velocità da una potenza, e quindi viene trasferita sostanzialmente una potenza che nel tempo ha energia. E di che materiale è fatto questo aquilone? Cioè come è composto? Di che materiale siete andati a cercare? Perché io sono convinto che questo aquilone non sia proprio uguale a tutti gli altri, quelli che facciamo volare quando andiamo sulla spiaggia e ci divertiamo. La nostra intenzione è arrivare a fare degli aquiloni in materiali tecnologici semirigidi come il policarbonato, e per adesso, per questioni così di sicurezza, di messa a punto della macchina, stiamo usando degli aquiloni ancora in stoffa che hanno, si comportano molto bene, ma non possono raggiungere le efficienze di ali in policarbonato o altri materiali. Senti, un altro discorso da fare sicuramente è perché mandate questo aquilone in troposfera? E in particolar modo volevo sapere, prima di tutto, a che altezza è la troposfera, giusto per avere un'idea di riferimento, e seconda cosa, quanta energia si riesce a ricavare da lassù? Cioè perché non usare le pale eoliche che già funzionano e invece buttare questo aquilone in troposfera? Ma il motivo è semplice: abbiamo il vento che diventa man mano più forte e più costante man mano che ci si alza. La troposfera va da terra fino a 10.000 metri, la massima potenza l'abbiamo a 9.000 metri. La potenza specifica, cioè i watt per metro quadro che abbiamo a 9.000 metri, sono 5 kilowatt al metro quadro di potenza specifica, mentre a terra dove lavorano le torri eoliche abbiamo circa 75 watt a metro quadro di potenza specifica. Quindi si può capire, uno, che abbiamo molto più fronte vento intercettabile e quindi molta più aria a cui sottrarre l'energia cinetica andando da 0 a 10.000 metri, e soprattutto abbiamo molta più potenza, una potenza specifica molto più alta. Noi ci rilasciamo con una canzone degli Hype e questa si chiama My Innocence. Al rientro continueremo a parlare con Massimo Ippolito di Kitegen. Siete sempre all'ascolto di Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. Vi ricordo il numero di sms che è 33 180 94 94, e anche la mail che è cacciafotone@radiocittafujiko.it. Al telefono abbiamo Massimo Ippolito, fondatore di Kitegen. E vi ricordo che potrete porgli delle domande tramite gli sms e tramite la mail. Massimo, io sono andato sul vostro sito, che è www.kitegen.com, e ho guardato i video in cui presentate il progetto. In particolar modo mi sono reso conto che vi siete divertiti parecchio a sviluppare questo progetto. Mi spieghi più o meno come è andato avanti, quante persone hanno lavorato, se ti sei divertito, se non ti sei divertito, che cosa credi che questo progetto possa dare all'umanità? Sì, chiaramente la cosa è molto affascinante, sembra... all'inizio poteva sembrare un gioco, ma adesso sta diventando tremendamente serio, perché ci sono 5 università, almeno una cinquantina di persone che ci stanno lavorando, ci sono tesi di laurea, dottorandi, quindi sta diventando veramente un progetto che ha bisogno di un supporto scientifico estremamente importante. Come dicevo prima, l'idea che è venuta fuori ormai 6 anni fa era molto affascinante, cioè agganciamo queste masse d'aria, otteniamo una forza meccanica per una velocità nel tempo, quindi energia, e la convertiamo in energia elettrica tramite gli alternatori. Rimaneva il problema delle funi, cioè le funi a un certo punto finiscono, ci siamo allontanati con queste ali magari di qualche chilometro, e queste funi sono da recuperare. E il dubbio che resta a chi non conosce il progetto è quello di dire, ma recuperando queste funi andrete a consumare l'energia che vi ha appena prodotto. L'invenzione sta in questi metodi di recupero a bassa energia, nel senso che il profilo alare assume delle posizioni nel vento in modo da poter tornare indietro senza esprimere la forza, la portanza che prima ci aveva dato per produrre energia. Senti Massimo, qual è il limite fisico di Kitegen? Ma il limite fisico è dato dalle configurazioni. Appunto, i metodi per ciclare, quindi dobbiamo fare dei cicli. Se il Kitegen a yo-yo, nel senso che il kite viene trascinato nel vento, poi lo riportiamo indietro, poi viene ritrascinato, poi lo riportiamo indietro. Ecco, in questo caso la potenza limite della macchina è intorno ai 3-5 megawatt per punto, ma poi abbiamo realizzato che potevamo fare un ciclo più complesso mettendo molti profili alari su un anello rotante di grandi dimensioni, e il limite fisico di questo anello è dato dall'altezza di volo dei profili alari, che non devono superare la troposfera, e quindi c'è un rapporto tra l'altezza di volo e il diametro dell'anello, e quindi facendo una prima valutazione abbastanza accurata possiamo superare le decine di gigawatt, quindi equivalenti a diverse centrali nucleari per singolo impianto. Quindi siamo per la prima volta nella situazione che una fonte di energia rinnovabile non è marginale, è in grado di competere con gli impianti convenzionali. Senti Massimo, quindi questo è il motivo per cui avete sviluppato un sistema di questo tipo? La mia domanda era fondamentalmente perché sviluppare un sistema che recuperi energia dal vento e non per esempio puntare su altri sistemi? Ma il motivo è semplice: i pannelli fotovoltaici, che devono essere assolutamente sviluppati, e tutti i tetti dei capannoni devono essere provvisti di pannelli fotovoltaici, stanno facendo un percorso abbastanza accidentato. Per esempio il governo italiano aveva istituito un fondo per aiutare l'installazione dei pannelli ben 20 anni fa, poi questo fondo è stato scippato, dirottato in altre direzioni molto meno nobili, e quindi siamo in grave ritardo. Adesso non c'è più tempo. L'atmosfera la possiamo considerare come un grandissimo collettore solare che fa già il lavoro di trasformare l'energia del sole in energia meccanica. L'energia meccanica è un'energia nobile. Perché nobile? Perché si può trasformare facilmente in calore, in elettricità, senza perdite. La cosa è nettamente migliore rispetto all'energia termica, per esempio, che per essere trasformata in elettricità ci impone delle perdite anche del 60%. Andiamo con un altro pezzo musicale che è sempre degli Hype e si chiama Anybody Here. Al rientro continueremo a parlare con Massimo Ippolito di Kitegen. Dead to know. Did relief canzone molto struggente, quella degli Hype e Nipa Deer. E siamo alle ultime conclusioni di Caccia al Fotone. E oggi stiamo parlando di Kitegen, un aquilone in grado di intercettare grandissime quantità di vento in quota in un'unica installazione. E ritorniamo in studio con Massimo Ippolito, uno dei fondatori di Kitegen, per le considerazioni finali. Quindi Massimo, in conclusione di trasmissione ti voglio chiedere che cosa miglioreresti di questo sistema, quindi in particolare che cosa c'è da migliorare e le prospettive per il futuro di Kitegen. No, l'unica cosa da migliorare è la testa dei nostri governanti, perché è notizia recente che Berlusconi sta rifiutando Kyoto, sta rifiutando l'idea e il commitment vincolante dell'Unione Europea di arrivare a questo 20-20-20, cioè un 20% di riduzione delle emissioni di anidride carbonica, un 20% di risparmio e un 20% di incremento delle rinnovabili. Purtroppo pensano solo in modo vecchio, con il vecchio paradigma economico, e dovrebbero rendersi conto che siamo alla fine di un'era, l'era del fuoco è finita, cioè non possiamo continuare a essere degli uomini primitivi che basano la loro vita sul fuoco, perché non c'è più atmosfera, non si può più inquinare l'atmosfera, quindi l'unica cosa da cambiare e questo atteggiamento spesso di sufficienza quando si dice che si può produrre dell'energia anche senza bruciare qualcosa. Il nostro progetto fino adesso è costato molto poco. Quando vediamo che un caccia strategico, un aereo da guerra costa svariati miliardi per essere sviluppato, e per fare dei danni, cioè vengono spesi 45 miliardi di euro che vengono buttati dalla finestra sostanzialmente. Massimo, ovviamente noi non possiamo che non darti ragione, insomma le spese per la ricerca scientifica, almeno per sviluppare fonti di energia alternativa, dovrebbero essere quelle primarie e non quelle secondarie e terziarie, anche perché sappiamo che in questo ultimo periodo la ricerca sta avendo altri tagli, quindi la ricerca sta avendo dei tagli, le persone che sviluppano sistemi di questo tipo vengono finanziate o poco o niente, quindi insomma il problema è sempre lo stesso, giriamo sempre attorno a questo concetto: se non si sviluppa una cultura scientifica in Italia è una cultura che andrà persa e sarà un'economia che andrà sempre peggio. Esatto, il Kitegen è molto più semplice di un caccia strategico, i soldi per realizzarlo sono immensamente meno, ma continuiamo a vedere, qui in Piemonte ci sono le officine che costruiscono i Typhoon che continuano a sfornare macchine da guerra, e noi lavoriamo con dei soldi che arrivano da lontano, non certo dal governo italiano. Massimo, con queste tue considerazioni finali io ti saluto e saluto tutti i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori che si sono messi all'ascolto di Caccia al Fotone e anche di Radio Città Fucico. Io vi chiedo di non abbandonare questa radio, perché questa radio ha una programmazione non indifferente, quindi non l'abbandonate. Vi rimando a sabato prossimo, stessa ora, stesso fotone, quindi sabato 10:30-11, e come al solito vi auguro una buona scienza a tutti.